questo qua è un inedito fatto per YouTube, fatto per Radio XXX, fatto per tutti gli ascoltatori di buon rap underground. È inutile stare qua a cliccare mi piace su Facebook se poi il pezzo non lo ascolti. Questa qua è una novità, una nuova chicca, vai binè. Ci sono fasi in cui vorrei, sì vorrei, saper fare davvero quel che dovrei. Ci sono volte in cui potrei, sì sì che potrei, ma diciamo che amo farmi fatti miei. Io decido ogni passo, un suicidio, una gioia, una noia nuova, risolta la vecchia scuola. E già che si fuma ancora, ma meno, almeno credo, e non mi va di parlarne ora. Eppure mi vedo e me lo ripeto, ma sfora il pensiero d'un miraggio concreto e vola, vola. Apri le ali, il cielo infinito, e non credere di avere uguali. Vali tu come me, come tanti altri, non è tu più di me se con te non parli. Già, per ogni su c'è sempre un giù, per ogni me c'è sempre un più. Il mondo fa girare, bianco nero, falso vero, il mondo gira fino a quando intero. Sei di qua o di là, vieni vuoto o pieno, senza se, senza ma, il mondo fa girare. Bianco nero, falso vero, il mondo gira fino a quando intero. Sei di qua o di là, vieni vuoto o pieno, senza se, senza ma, il mondo fa girare. Tiro in mezzo gli amici, facendo presa dalle basse radici, fino in superficie, chi dice che me la meno dallo sguardo. Stringo gli occhi perché non vedo da un palmo, di dove sei, cosa fai, cosa porti. Se sei nuovo ti dicono prima informati, e se lo fai dovevi farti i cazzi tuoi, così campi cent'anni sotto gli occhi degli avvoltoi. La rivolta mediatica non contamina la mia mentalità pratica, comandata dal mio mino nel cervello che mi fa. Belli e brutti, siamo soli in questa triste realtà. Avevo voglia di dirti che tutto cambia, dalla fisionomia alla filosofia. Cerco ancora di restarci dentro e lo farò finché non sarà mai perso tempo. Bianco nero, falso vero, il mondo gira fino a quando intero. Sei di qua o di là, vieni vuoto o pieno, senza se, senza ma, il mondo fa girare. Bianco nero, falso vero, il mondo gira fino a quando intero. Sei di qua o di là, vieni vuoto o pieno, senza se, senza ma, il mondo fa girare. Il mondo fa girare. Il mondo fa girare, tutto fa girare il mondo, nel bene o nel male, belli o brutti, bravi scarsi, onesti farabutti, yeah. Tutto quanto fa girare il mondo, raga, non facciamo distinzioni, siamo tutti uguali sotto questo sole che ci brucia il petto. Vino e che yebinè, questo è un pezzo semplice. Non cliccare mi piace che non è il caso, ascoltati il pezzo semplice. Vino e che yebinè, Malaroy sul beat. Radio XXX in diretta quasi tutti i giorni quando ce la si fa. Yeah.